sai, io a quest'ora sempre mi senti partenza. Positivo. Un viaggio fai oggi dove? Oggi sì. Ieri due ne fatto. Ho fatto uno, siamo arrivati qua intorno all'una e mezza. Ah, ecco perché. Vabbè, chiamarti, fatto me lo puoi immaginare, senz'altro ho fatto il viaggio. Perché siamo partiti a mezzanotte da Olbia, siamo partiti. E allora non ha coinciso, era quella mezz'oretta di ritardo. Cappa. E va bene, l'importante sia tutto noce. E questo microfono fa che? Non ho capito. Questo microfono com'è? Quello che stai usando tu? E io. Se esce bene, come cacchio sto facendo? Non è 1.300 questo qui, eh? Oh, buonissimo. È un 1.300 fatto, capito? Buonissimo, dove? Buono, chiaro, buonissimo. Devo meglio così, da? Meglio così. Pacca. Scooter, preso, te l'hai? No, ho avuto altri problemi, non ho preso niente, dove? Quando ci sono altri problemi, è meglio lasciare stare. Così, che non ci vuoi fare? Purtroppo mi hanno bruciato i soldi anche, i lavori che ho fatto. E mi hanno messo in questione. Quello lì non mi va, quello lì mi ha bruciato i soldi, qualche non va bene. Non va bene, no. Non prometto. Attendere, avere pazienza, perché in questo momento non li aveva. Ho detto, va bene, no, potevi attendere anche prima di farti i lavori. Li attendere. Queste cose mi danno troppo fastidio, troppo. Lo so, purtroppo danno fastidio, sì. Ciao Falchetto, buonasera. Ecco. Registrato Brecchi, buonasera Sandro e ben ritrovato anche a Gianni Capelluè. In compagnia Domenico, tutto di lezione, il paese delle bombarde. Avanti per i saluti per Domenico. Ciao Cappa, buonasera Domenico, ben scorciato. Un attimino, perché ti voglio chiedere, siccome ho messo su l'antenna, siamo la signora antenna, volevo chiedere a Capri 2 se da lui ho cambiato qualcosa. Ehi Capri. Signori, buonasera, ciao Domenico, ciao Antonio e ciao Sandro. Da giorno alla notte, comunque, mi arrivi con un santiago quasi di 8, non c'è quasi di 8, se mi metto gli occhiali forse è 8. Comunque, ha migliorato molto Sandro, immagino che ho migliorato anche io, quindi. Positivo perché diciamo ho più ricezione, diciamo che ho una 50 via la Mantova, aumenta diciamo il segnale di ricezione, quindi mi arrivi anche meglio e ti ascolto anche meglio, tutto lì. Va bene, quindi sono contento per te e anche per me, perché quando migliori tu migliori anche io, tu migliori trasmissione, io migliori ricezione, hai capito? Riprendi ancora sempre con la buonasera, ti diventi un cambio, vai. Positivo, buonasera, ben entrati a tutte e due. Abbiamo lasciato un attimo di bianco a Domenico. Avanti Domenico per i saluti a Capri 2 e a Sandro da Porto Tosso. E a Sandro, dai, la buonasera, anche Capri 2 lo stai. Un attimo di cacchio, non so se mi ascoltate. Ok, se non sbaglio mi sembra Domenico, se no mi correggi. Ok, ben sentito, sei almeno secondo il mio punto di vista sei troppo rimbombante. Sì Sandro, è entrato un attimo in buca Domenico, comunque non è il suo apparato, sta provando un altro apparatino E niente, riprendi già. E ok, no, già lo attacco io subito. Comunque sta migliorato, guarda, anzi pensavo che non gli ha fatto torre. Pensavo che non gli ha fatto torre, se metti in FM pure con quell'antenna, mi paghi anche lo Twitter. Non niente, mi dai il tempo, anche io sono andato da 5, solo che vuole alzata, vuole appena ci abbiamo tutti di tempo, che non li ho mai oggi, proprio sono stressato, proprio oggi è stata una giornata molto movimentata, però se il palo pronto, quando l'altro qualche cosa lo devo recuperare, almeno un mezzo fantiano. Domenico, ci sei? Ok, è tornata nell'altra, quindi rimettiamo il tutto a Sandro, avanti Sandro. Ok, ok Gianni. Sì, no, guarda, è inutile. Ogni cosa al suo posto, c'è poco da fare. Ho visto, infatti, stamattina stavo piazzando, poi mi sono trovato un attimino in difficoltà, purtroppo per verità si dica, lo devo far presente. Ho scocciato a Claudio, gli ho detto Claudio, infatti è sceso anche lui, mi ha dato una mano, poi l'ho finita di piazzare, tutto lì. E quindi ho notato la ricezione, addirittura tu adesso mi stai arrivando con un Santiago di quasi 8, con una radio di 5, quindi ti ascolto benissimo, non faccio difficoltà a tirarti fuori. E niente, cosa dire, insomma è inutile mettersi le scarpe strette se poi cammini male, al piede ci vuole la scarpa giusta, tutto così, o capri? Sì, ok, no, tranquillo, sta adesso alla grande, magari poi aggiungi qualche cosettina, tipo l'amplificatorino, però quando finiamo l'alimentatore poi ce ne passeremo le FM, quindi ci ascoltiamo con una telefonata, ma l'hai comprata a Sassari per caso? Non ti ho capito, Oca. L'hai comprata a Sassari l'antenna? Sì, diciamo la Mantova Turbo, quella otto radiali, va fin troppo bene, addirittura ho accordato stazionarie su tutti i canali, c'ho uno e due, fisso chiodo uno e due di stazionarie. Ok, ma ascolta, non l'hai comprata la grafica, Carlo? Ah, l'ho comprata da Grassi, sì, l'ho comprata da lui. Non è che noi che io ti ho visto stamattina, c'è una macchina grigia per caso? Una punto grigia. Non lo so se era una macchina, io stavamo da Grassi stamattina, io c'ho una Volvo Station targata a Milano, non so se eri tu quello. Chi lo sa, può darsi pure, Capri. Ora, io sono passato che era, mi sembra, perché erano le otto e qualcosa, insomma. E io quello ero lì perché ho portato lo scuolabus per le carte, ho dato la macchina a mio figlio e poi sono andato da Grassi per vedere l'alimentatore, tu. Non sai quanto mi ha sparato? 330 euro per l'alimentatore. No, 330 euro, no. Allora guarda, ti posso dire una cosa, io quando gli ho chiesto il prezzo di questa antenna mi ha sparato 135 euro e io ho detto no, stai sbagliando, ho detto no, non esiste. E poi tira, molla, questo e quest'altro, tutto quanto, me l'ha lasciata per pura verità, c'ho ancora lo scontrino, 102 euro. Allora, quando si parla di due pugni in faccia, non so se l'ho pagata, quasi 150 euro la Mantova 5, non lo so se aspetta che appena lo faccio girare con le scuse per Domenico e per Antonio, ringrazio subito ad Antonio, perché tu ancora lo scontrino, non mi ha fatto 10.000 di sconto, e c'era con me il Natalino Cerami, che te l'ho comprata, riprendi Antonio. Ok, mi ho lasciato Non gridare, Capri, non gridare. Certo, Adio, ben entrato, ben ascoltato. Abbiamo lasciato un buon stand-by che è a domenica. Avanti, domenica. Positivo. Sono ladri, sì. KK, riprendi, Claudio. Io riprendo, vi ascolto perché è pronto la cena, vai. Se coincide ci sentiamo dopo, altrimenti inviamo da tutti un procedimento di questione. A Gianni, non gridare, Capri, non gridare, non gridare con quel microfono, sì, tutto allucinante, sì. Facci tranquillo e sereno con la modulazione. Ciao Sandro, ciao a tutti. Allora, l'alimentatore grosso che sia, 300 euro esiste. Allora, io ho comprato un alimentatore da 30 ampere, che sono 30 ampere di picco, da Profle. Ho pagato, mi sembra, intorno alle 60, neanche quasi 70 euro. E quindi, cazzo, con 300 euro quanti alimentatori ci escono? No, adesso 330 addirittura, quello lì, 1015 con 20 amperi, il telefono gli ha, se l'ha comprato l'antenna, l'ha fatto quella situazione, ma l'ho fatto a titolo di curiosità, perché come è andato, non perché sarei così, ho chiesto per l'alimentatore, per cercare quelle spugne del microfono, questo che lo dico, no, niente di, intanto non lo sto comprando, lo comprerò sicuramente via internet, o la tecnocomunicazione da quei siti lì. Sì, riprendo io, faccio un attimo di carica e se coincide a più dopo, per il momento vi saluto, ciao a te, a Sandro e anche a Claudio e anche a Domenico, se coincide dopo, ciao. Ok, Antonio, buon carica, buon futuro l'ho fatta, ma poca roba perché forse non ho neanche voglia perché ho mangiato anche che erano le due passate, quindi la digestione, così riesci a viaggiare, diventa lenta. Ok, qui siamo, mi sento in due righe, riprendi Domenico, dove sei? Grazie. mi piace dialogare con Claudio, che lui già quei discorsi sempre mi porta in euforia. Ok, adesso rilancio il tutto a Sandro. Sandro, mi prendi? Ok, va bene. Lasciamo fare carica. Sì, no, io allora ho valutato, diciamo, su internet, e poi vabbè, ho valutato qui i prezzi, guarda, qui sono allucinanti. E io adesso ho preso qualcosa lì dalla, si chiama, dalla elettronica GM, che è a Milano, addirittura le invio un'email di quello che mi serve, non mi fanno pagare neanche spedizione e mi trovo bene. Quindi, a pari conti, io adesso questa, l'antenna l'ho presa perché ordinandola da via internet mi veniva a costare, mi sembra, 110 o 115 euro. Vabbè, ho risparmiato, per dire quanto, qualcosina, però ce l'avevo qua. Però lui mi ha sparato molto di più, quindi me l'ha lasciata a 102 e l'ho presa, se no non l'avrei neanche presa oggi. Ciò che non mi sembra che l'ho pagata, quello che ti ho detto, me l'ha scalato 140 euro, non lo so, stavo guardando il blocchetto degli assegni, perché mi sembra che ne avevo fatto l'assegno per i blocchetti, ma non me lo trovo in quel blocchetto. Forse gli ho fatto quelli degli assegni non trasferibili. Potrò chiamare, se c'è io guardo, perché c'è anche lo scontrino, il solito lo scontrino, forse ce l'avrò buttato, che è sbiadito in tasca. Sto parlando io di in aprile, mi sembra che l'ho comprata, però la 50, se lo ricordo benissimo, infatti mi hanno messo tutti, se l'avevi ordinata da fuori ti ha costato molto di meno, e purtroppo l'ho comprata, sai, niente. Poi non so se ne ho dato lo stup per diminuire e stazionare, capito, le linee volare, io l'avevo regolata e stazionare ne ha quasi zero, e quasi zero, poi diciamo, se va in altri canali si vorrebbe raccordare, perché io questo ce l'ho in bypass, perché non c'entra nulla con la 27, però diciamo l'antenna è buona, però stava flippiando a meno, oggi io volevo 95, perché mi ero fissato con quella lì, però niente da, diciamo, da dire alla Mantova Turbo, che sarà un po' quasi precise. Comunque, hai fatto un affare, per quella cifra lì hai fatto un affare, forse perché non te la comprava nessuno, poi non lo so. Riprendi dove ti trovi? Trasformatore, non quelli a schede, io voglio alimentatore con trasformatore, perché sono gli unici, perché Claudio mi ha parlato che ne aveva di quelli che sono andati poi, sono impazziti, che aumentavano, variavano la tensione, voglio vedere quando compro una roba come si deve, però forse lui subito mi ha messo i puntini sulla I, quando l'ho visto mi manco vedere me l'ha fatto. Ecco, c'era una scatola di quelli scaffali, questo è un alimentatore da laboratorio, però mi ha detto subito, però a me non mi serve, mi serve l'alimentatore per, come si chiama, per l'apparato, perché l'apparato assorbe questa pochetta qui. E niente, qui ho quella cifra, non ne so, manco 150, se non la per 150 non glielo compro, guarderò su internet e troverò qualcosa che si adatti per il baracchino, per questa roba che sto usando adesso, perché per il baracchino è sufficiente quello, mi prendi già. Ok, ma guarda, se uno, per dire, non ha grosse esigenze, non ci deve attaccare grosse cose, diciamo, all'alimentatore, un 30 A, più che bene. Poi se ci deve attaccare altro, si prende un 50 A, che un 50 A, so, a occhio e croce mi sembra che costi intorno alle so se costi 200 euro cosa, però è diciamo un 50 per, capito? Infatti non la posso comprare anche quello, sai perché? Se non la spesa già una volta e ce l'hai che diventa un sacco di roba, perché? Hai capito? La Francia era mio figlio, era affascinato, però non ci modula il grande. E sono contento perché c'è le passioni che c'è in queste cose, mi ha detto. Però io ho detto una cosa, io sto cercando, ho detto, ora. C'ho una scatola enorme piena di quadri fondamentali, se trovo il quarto over, canale 10, ho detto, di vedi quei baracchini che ho a 6 canali, qui facce, qui ho attacco uno di quelli, non è quello che ho detto come si chiama, questo è per collezione, attacco uno di quelli, sa, parlo con voi tranquillamente, anche se lo amplificherò un po', e poco diciamo che quando c'è una cosa, non voglio completa, sempre so che è ordinato anche qui, quando mi passa Domenico, mi dirai, che ho ordinato anche la parlare, tutte queste cose, anche io piano piano devo avere anche quello, però piano piano, hai capito, però cosa vuoi fare l'alimentatore per 160 euro, perché non me l'ha fatto neanche vedere, però mi ha detto dal laboratorio, Domenico quindi. Le riproduzioni che fanno non rispettano più il microfono come è uscito all'epoca, perché ho sentito anche in 40 mesi una discussione sulle SM20 nuovi, ma io l'ho comprato usato, poi ti dico, te lo pago a prezzo di quello che del nuovo, te lo pago, perché se voglio avere una cosa che si è uscita in quell'epoca della rete, perché molte volte si riproducono e non hanno più le stesse caratteristiche, se hai capito? Vabbè, lo so, ogni tanto fanno aggiornamenti, escono cose nuove, è tutto lì. L'importante, diciamo, è non tanto il segnale, ma quanto diciamo la modulazione, farsi sentire. Io adesso per dire ho valutato poco fa, cioè da prima, adesso c'avevo una mini Grand Play che è un quarto d'onda, e adesso ho messo una 5 ottavi, quindi la resa è molto maggiore sia in recissione che in trasmissione. Quindi se uno vuole andare diciamo in tranquillamente perfetto, ci vuole la roba sua, è inutile delle volte risparmiare le 10-20 euro che poi risparmia e non ricava niente, e poi magari ne deve aggiungere altre 50-100 per raggiungere la linea diciamo come deve essere fatta, capito? Infatti quello lì sa io. Diciamo, però giusto che queste cose per averle, non è... E io ho affascinato Marcucci, ho buttato l'occhio su questo apparato dal 1994 che mi avevo il catalogo della Marcucci. Non me lo potevo permettere, sai? Non me lo potevo permettere e quindi io un giorno che ti trovo, adesso ti compro, quando sei a fresco, dava 40 milioni di lire. E quello l'ho beccato l'anno scorso, a distanza dei 15 anni, nuovo l'ho comprato, adesso ho minimo, adesso che ti compro adesso, e poi ho comprato questo e un altro apparecchietto, perché ho mi ero messo in testa, quell'apparato un domani lo devo avere, non so se erano armi, volendo che mi potevo, però ero sul tasto come l'ho visto su se ok. Da parte mia negativo Domenico, in quanto diciamo già l'ascoltavo un po' male poco fa. Ok, Capri, un attimino stacco e riattacco che voglio fare. Ok, dai, va bene, chiudi pure. Ok, e qua ci siamo. E qua. Cambiato qualcosa? Prova. Ok, prova, vedi un po'. Mi sembra che sei il mio segnale, sa. Di quanto ha diminuito? Ma diciamo circa tra una tacchetta e mezzo, sei all'auto, sei e mezzo, sei. Allora, aspetta un attimo. Allora, poc'anzi ho fatto la prova, ero con 5 watt. Ok, adesso sono esattamente con 8 watt. Che il segnale quasi 8 non ti arriva, però quando fare l'antenna stelle con tutti i positivi. Ok, dai, va bene, dai. No, non lo voglio tenere diciamo stabile, tranquillo, senza pressarlo, capito? Adesso gli ho dato, sono esattamente 8 watt con picchi di 10, dai, tutto lì. Guarda, sto andando, io vediamo un po'. E io sto andando, non dico molto, con più di 20 watt sto andando. Addirittura. Ma non è troppo, no? Non ti conviene tenerlo costante? E però parte infatti quello che sei stato a fare a te. Ma diciamo che poco fa mi arrivavi quasi 8, adesso ha diminuito mezzo, di mezzo, quasi 7 e mezzo. Io che sto andando, aspetta, quasi 4 metro, e con circa 8 mi si va, dai. Sì. Sì, no, non conviene, cazzo, farlo pompare, a parte che magari se surriscalda lui, vabbè, c'ha le sue protezioni, c'ha tutto quello che vuoi, è meglio... Scusa che sto controllando un attimino qua la modulazione. Per modulazione qua mi posso vedere un attimino. Ok. Allora, aspetta un attimino, che stacco. Ok, la modulazione adesso cosa è successo? Si è abbassata. Si è abbassata perché ho tolto... Ok, ok, così va meglio, dai. E ho tolto un attimino il processore. No, adesso va bene. Sì, no, no. E beh, togli il processore. No, il processore è però... Adesso aumentato ancora. Ma aumentato, sta strappando adesso, è a strappa. Infatti me ne accorgo dal modulatore. Adesso va meglio? Ma passa ancora appena. Ok. Adesso? Può andare. No, la mia è regolata, l'abbiamo regolata con Claudio. Infatti, il microfono come ha rifatto non l'abbiamo toccato, quel streamer che c'ha. Abbiamo come ha detto Claudio, prova con me qui, lo lascio così, adesso il palla grande, non ho più toccato, mi ho segnato le stacche del me qui. Ed è alla grande così, e non lo so perché. E ha detto Claudio che fa. Beh, io il baracchino quel corno non lo sento, però perché non ho modo di in macchina c'ho l'impianto, però sa, molte volte diciamo non riesco a diciamo a fare la cosa perché non c'è stampa di mettere, di fare, però c'è l'antenna c'ha tutto, però un giorno vuole andare in qualche stazione a contare come si sente la mia stazione, capito? Chiudo per vedere come esce, metterò uno dei miei figli, almeno per il giorno lo sacrificherò. Io ragazzi, io so se diventa una passione, ho detto che regalo, porto roba superiore a 10 volte di quella che sono io, nessuno dei due ne può sentire, perché sarei stato contento, sa, perché va per la passione, solo che non ce l'hanno, il grande mi ha preso. Perché io suonavo la fisarmonica e mi ha preso per quella roba lì, mi ha preso per le patenti, e c'è tre patenti, anche lui c'ha anche la E in più, oltre a quella del fumo, e il piccolo mi ha preso perché è appassionato di moto come ero io quando ero ragazzo, però ai baracchini non si è appassionato nessuno, sa. Ho capito. Va bene, dai, ok. Vabbè, sono passioni che uno magari che nascono, però è sempre meglio lasciare decidere loro le passioni loro, capito? Uno magari le proporre, gliele proporre, diciamo, se va, se no ognuno prende la propria passione. Va bene, ok, Capri, ti lascio un attimino che devo fare una cosetta, magari ci sentiamo più tardi, dai. Va bene, Sara, qui è sempre acceso e chi vuole entrare sempre come me, come fa Claudio, qui sono qui io, ma la camera.